come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali appena andati in onda, TG2. Saranno rimpatriati i tre figli della coppia tedesca scomparsa ad Aosta, un infanticidio forse dietro il giallo. Un quarto bambino era stato ucciso dal padre, ora in carcere in Germania. Ore drammatiche nelle Filippine, blitz per liberare l'italiano Eugenio Vagni, ancora ostaggio dei ribelli islamici, 1000 soldati impegnati, Frattini, decisione inopportuna. Napolitano, il 25 aprile non è festa di una parte sola, la Costituzione non è residuato bellico, legittimo rafforzare i poteri del governo, ma già sono stati rafforzati. Ancora maltempo sulle zone terremotate, inchiesta, tempi lunghi, almeno 6 mesi per le perizie, trasferita da Teramo a Modena, Eleonora, ultima estratta viva dalle macerie. Dopo l'albergo sotterraneo a Milano, altra scioccante scoperta a Chinatown, decine di cinesi dormivano ammassati l'uno sull'altro in un locale di appena 12 metri quadrati. Come avete appena sentito, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto che la Costituzione non è un residuato bellico e dunque è molto molto attuale, e nello stesso tempo però ha detto che non è intoccabile, che si può modificare, naturalmente anche rafforzando i poteri dell'esecutivo. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Blitz nelle Filippine per liberare Eugenio Vagni. Si teme per la sorte dell'ostaggio italiano da gennaio nelle mani dei terroristi islamici. La Farnesina segue gli sviluppi ma ribadisce: siamo sempre stati contrari ad un'azione militare. Gli aggiornamenti in diretta. Abruzzo, viaggio nel paese fantasma di Fossa, entro terra Aquilano, uno dei più colpiti dal sisma. Le scosse continue rischiano di far franare il monte che sovrasta il borgo. In tutta la regione il maltempo complica la vita nelle tendopoli. Berlusconi annuncia: celebrerò il 25 aprile ad Onna. Il dramma dei tre bambini tedeschi abbandonati in una pizzeria di Aosta. Ancora nessuna traccia della madre, ma il suo compagno sarebbe stato visto sul treno Verona-Monaco. E nella vicenda emerge un passato di orrore. Il padre naturale dei piccoli è in carcere per omicidio, accusato di aver ucciso a botte un'altra figlia di appena 2 mesi. Non buttare sigarette sulle scale, non parlare a voce alta vicino agli italiani. Va bene, 18:40, 800 24 00 24, il numero per intervenire in questa prima parte della trasmissione, a grande richiesta per il successo di ieri in tarda serata. Alla fine della nostra trasmissione l'abbiamo spostato nel nostro prime time. Giuseppe Cirillo, buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci qui, psicosessuologo casertano, regista, attore, uomo politico, forse esagero, comunque. No, sì, è vero, è vero. Ha presentato, ripeto, per chi non lo sapesse, 5 liste per le elezioni europee. Domani ci sarà la decisione, credo, no? Se queste liste entreranno o meno. Sì, sì. Probabilmente no, insomma, mi azzardo. Siamo fino all'ultima ora in attesa di una situazione di liste composite che ci farà partecipare o no, ma in ogni caso posso dirle che partecipiamo alle provinciali con sicurezza di Napoli e di Milano. Va bene. Preservativi gratis, queste sono le liste. Partito impotenti esistenziali, donne insoddisfatte e incomprese, Italia dei malori, italiani. Poca cosa. Resti con me, Cirillo, sì, perché andiamo ad ascoltare che cosa? Andiamo ad ascoltare alcune candidate di Berlusconi. Sembra, anche se ha detto non è sicuro che sarete candidate, se da una parte ci sono volti noti come quello per esempio di David Sassoli, come la giornalista anticamorra e altre cose ancora, pare che nelle liste del PDL ci sia spazio anche per, come dire, alcune ragazze protagoniste di spettacoli televisivi nel passato. Per esempio una è Angela Sozio, anni fa al Grande Fratello. Fedro, un uomo chiamato Divano. Angela, una rossa esplosiva. Nascerà qualcosa tra tali fenomeni? Mi sono buttato su Angela quasi per disperazione. È quasi più un gesto da Ultima Spiaggia. So chiaramente che siamo su due livelli completamente diversi. Lo so benissimo. Tu pensi non ti potrei mai innamorare di lui? Qua? No, penso proprio no. Mi vuoi? Certo. Dal Grande Fratello, forse, a Strasburgo. Poi ancora Camilla Ferranti, credo anche lei, velina, eccetera, eccetera. Sentite. Senza tanti panegirici, io ho scelto te. E io ti dico di no. Cioè, non me la sento di dirti di sì perché a Uomini e Donne, trasmissione della De Filippi. Ancora Barbara Matera, annunciatrice Rai. Buonasera. Tra poco il TG1 della notte, poi sottovoce con Gigi Marzullo. Va bene, lasciamo perdere queste cose, giudicate voi, ma insomma, qualcuno parla anche di ascesa sociale. Si permette in questo modo a persone che vengono dal nulla di arrivare addirittura a Strasburgo. Lei che dice, Cirillo? No, assolutamente sono d'accordo con la venatura di sarcasmo che lei ha, con cui lei ha arricchito la notizia, perché in effetti è palese a tutti e tutti possono essere d'accordo con lei. Cioè, voglio dire, i meriti sono tutt'altra cosa, poi si è giudicati dal popolo, compreso me chiaramente. Beh, soprattutto alle elezioni europee bisogna prendere i voti, ci sono le preferenze, non è che si va là per nomina. Sì. È da tempo che l'esercizio di tutti i versanti, destra, sinistra e centro, è orientata ad arruolare personaggi che si sa che portano voti per la proprietà. Questo non fa piacere, conferma il fatto che le ideologie non esistono più e che quindi... Queste persone, secondo lei, fanno prendere voti queste veline, queste belle donne, diciamo, che soprattutto il PDL presenta nelle proprie liste? Fanno prendere voti, ma fanno perdere diciamo di reputazione a quello che è il concetto della politica. Non c'è. Vabbè, insomma, come lei presenta una lista, donne insoddisfatte e incomprese, parla di reputazione, anche lei gioca noi un po' su questa cosa. Abbiamo una candidata presidente alla provincia di Napoli che è sordomuta, quindi portiamo avanti un discorso anche legato a quello che è il problema sociale. Ma la lista non si chiama donne insoddisfatte e incomprese, immagino, sì, in questo sì, caso. Sì, sì. No, quella lì è preservativi gratis, infatti lei porta un discorso avanti di prevenzione insieme a noi. Distribuirà 20.000 preservativi gratis, proprio gratuiti, a quello che dovrebbe fare lo Stato, ma su cui uno dei versanti c'è scritto il vero sordo è quello che non sa ascoltare. È un gioco di parole incredibile. Sì, anche per sottolineare il discorso della che bisogna noi adeguare. Chissà come la prenderanno le associazioni dei sordi o dei sordomuti. No, bene, perché portiamo avanti il loro discorso. L'ha coniato proprio lei, Anni Trunco, che è la nostra candidata sordomuta alla provincia di Napoli, che dice il vero sordo è chi non sa ascoltare, non il sordo muto per natura, è chi non sa ascoltare, e quindi è rivolto a noi sani di ascolto, diciamo, no? Cioè al mondo civile. Fantastico, però io leggo che lei dice io i voti li voglio perdere, non prendere, ma che sì, significa? È vero, perché portando come si fa? Uno si presenta con queste cinque liste anche un po' bizzarre per perdere voti? Sì, perché noi miriamo alle coscienze, a parlare alle coscienze, a fare un discorso che cerchi di penetrare le coscienze, quindi ovviamente non viene misurato con i voti che si prendono, che lei ha detto poc'anzi, vengono fatti in una certa maniera. Quindi questo è il nostro discorso, cercare di far capire che certe problematiche vanno, che questo è un paese ipocrita, che si basa sul fatto che di questi giorni che viene punita una squadra, la Juventus, per fare un esempio, perché i loro tifosi fanno cori razzisti o si fanno convegni sul razzismo, credendo che la natura di razzismo che c'ha l'italiano, noi siamo un po' razzisti fondamentalmente. Lei dice, io non credo che sia così. Io penso di sì, allora è meglio prendere atto delle cose, cioè se l'immagina lei se si facesse un convegno o un corteo per eliminare la gelosia. Come la prenderebbe? Fa ridere, no? Per me fa ridere anche il fatto di fare dei convegni per eliminare il razzismo. Non si educa così il popolo, lo si educa con la realtà. Ammettiamo prima di essere un po' razzisti, il primo gradino. E poi costruiamo una società diversa, ma non basata sulla repressione della Juventus che fa... Vabbè, così ci perdiamo. Sentiamo, ieri abbiamo parlato della possibile candidatura di Vittorio Sgarbi con l'UDC. Oggi, da un'intervista al Corriere della Sera, mi sembra, Sgarbi dice: beh, sì, ci sono delle trattative, però sono in trattativa anche con la Lega. Risposta interlocutoria, dunque possibilista, questa mattina di Roberto Castelli, uno dei leader leghisti. Castelli, scusi, comincio da lei. Giusto una curiosità. Oggi c'è sui giornali una lunga intervista a Vittorio Sgarbi, che io avevo capito essere candidato, potenziale candidato con Casini per le prossime elezioni, e scopro invece che non è vero e che in realtà lui dice: ho già incontrato Bossi, sto trattando con la Lega per essere capolista nel centro, eccolo qua, lo vediamo, capolista nel centro e anche candidato a sindaco di Rovigo. Le risulta niente o è una sparata? No, Sgarbi è un personaggio pirotecnico, lo conosciamo tutti nei suoi grandi pregi, nei suoi grandi difetti. Diciamo che qualche interlocuzione c'è stata, poi quale tipo di esito darà, questo non è dato sapere. Secondo me Sgarbi e la Lega sono d'accordo solo sul no al ponte sullo stretto di Messina. Per il resto mi ricordo delle tirate di Sgarbi contro la Lega, in particolare quando era assessore a Milano, da far accapponare la pelle. Non so come la prenderebbero i militanti leghisti. 800 24 00 24. Siamo sempre in collegamento con il dottor Giuseppe Cirillo, che come sapete è psicosessuologo e casertano, ha presentato 5 liste, una delle quali è Donne insoddisfatte e incomprese. Ora io, ieri siamo andati un po' veloci, Cirillo, però lei mi deve spiegare una cosa. Come si fa a concepire una cosa di questo tipo? Cioè a immaginare il fatto che a un certo punto, se una donna non si ritiene soddisfatta dal proprio partner, potrà denunciarlo. Lei dice che prima o poi ci si arriverà e presenta addirittura una lista. A me sembra una cosa, uno scherzo, un gioco, per carità, la politica è fatta anche di scherzi e di giochi. Invece allora, lei è convinto, è questo che mi preoccupa. A me sembrava anche un gioco quando 7-8 anni fa lessi sul giornale che il ministro Buttiglione proponeva di dare 3 milioni alla donna che, avendolo deciso, poi cambiava idea e non abortiva più. È un'intromissione nel mondo della sfera personale della donna, come lo è per le eutanasie, di fare delle leggi quando deve essere il soggetto nella sua famiglia a decidere del destino, se staccare la spina o no. E così come non si può decidere sul corpo della donna o se qualcuno possa dire il preservativo sì e il preservativo no. Allora, da quando c'è stata questa invasione del politico, che anziché interessarsi di trasporti, di tasse, eccetera, cioè dove sappiamo come cosa combina, entra nella sfera personale dei soggetti con un'invasione. Vabbè, questo mi spieghi un po' com'è possibile questa cosa. Da questo punto di vista credo che siamo autorizzati anche noi a dire che c'è il diritto al piacere, se proprio vogliamo parlare dei problemi personali, intimi delle persone. Il diritto al piacere, vabbè, ma non mica è un diritto, il piacere, certo, non è mica un diritto. Certo, è un diritto, possono essere addirittura anche cause di separazione che si ispirano a questo tipo di, quindi non dico neanche delle cose tanto nuove, però io le vorrei rapportare a un discorso di legge dove ci devono essere delle sanzioni per il coniuge o compagno o compagna, perché può essere anche la donna in questo caso a commettere delle cose che non creano il piacere all'altro. All'altra e a che cosa si arriverebbe? A un risarcimento? Si può arrivare anche a un risarcimento, ma anche addirittura a motivare, a dare un senso all'infedeltà, il diritto all'infedeltà. Quindi giustificare perché una donna che non è soddisfatta dal proprio uomo ne può cercare un altro. E non sto dicendo nulla di eccessivo, perché si ricorda le statistiche di Repubblica e Corriere della Sera che dicono che il 70% degli italiani ammette uno o due scappatelle. No, ma quello d'accordo, però c'è bisogno di fare una lista elettorale per una cosa di questo tipo. Non è solo questo il motivo, noi parliamo anche delle incomprensioni, faremo dei convegni, ne faremo anche durante questa campagna elettorale. Ma a maggior ragione, cioè fare una lista elettorale su una cosa così, come dire, che riguarda la vita di coppia, certo in alcuni casi si arriva in tribunale, ma una lista elettorale basata su una cosa di questo tipo. Cioè la mia domanda, Cirillo, alla fine è questa: tutte queste cose non esistono in altri paesi, non è che si presentano tutte queste liste su queste tematiche così specifiche, perché in Italia c'è questo proliferare, un po' per mettersi in mostra, anche lei lo fa, per carità. Un nostro collega che presentò una lista chiamata Aborto No Grazie, allora devo dire che già hanno cominciato gli altri, queste si chiamano liste monocratiche, come anche presentati. Vabbè, adesso non vorrà paragonare le sue liste a quelle di Giuliano Ferrara sull'aborto, è un po' diverso. Però se ritirate, se ne andate in un cantuccio e non si fa vedere più, se è nascosto. No, veramente non si è nascosto, conduce un programma qui alla radio da noi ed è ancora il direttore. No, sto scherzando, lo stimo moltissimo. Giuliano Ferrara. Vabbè, ho capito, però dottor Cirillo, insomma, voglio dire, è questo che mi domando. Sì. Cioè, una lista donne insoddisfatte e incomprese, per non parlare delle altre. Non è fatta per complicare le cose. Facciamo una cosa, fra un mese, fra 20 giorni, quando lei vuole, facciamo in questo frangente due sondaggi, uno mio, uno suo, proprio per radio, e le faccio vedere quante donne le diranno che ha senso questa lista. No, vabbè, ma la lista ma la tematica potrebbe avere senso, ma la lista non credo che. Certo, comunque, perché le donne che hanno il coraggio di manifestare una cosa sono donne coraggiose. Oggi aumenta il coraggio di manifestare. Ho capito, ma che c'entra fare? Lei propone una lista che abbia questo, come dire, in cui ci siano dei candidati che propongono solo questa tematica. Cioè, non questo... solo questa tematica, questa fa scalpore, perché è chiaro, diritto al piacere fa pensare. Però secondo me ha senso, ha molto senso, proprio perché abbiamo fatto dei sondaggi prima di creare questa lista, capite? Nello statuto c'è scritto proprio che si segnala in base a una serie. Comunque, certo, lei poi lasciamo tutti di idee opposte, è chiaro? Carità. Senta, mi racconta una cosa, come è andata questa vicenda del suo film Impotenti Esistenziali, con Tinto Brass, censura di Marzullo? Mi racconti questa cosa che mi incuriosisce. Allora, io ho scritto una sceneggiatura di questo film Impotenti Esistenziali, che si ispira alle tematiche dell'altra lista, che è Impotenti Esistenziali. Quindi sulle vessazioni, sul bigottismo di questa sera, neanche a farlo apposta siamo vittime di questo bigottismo, in quanto io ho convocato per 10 giorni per presentare il mio film da Marzullo fino al 19 di marzo, alla vigilia della registrazione del programma In via Teulada 66 a Roma, negli studi della RAI, mi viene cancellata la partecipazione il giorno stesso in cui il Papa dichiara tutti i giornali del mondo lo riportano, dal New York Times, la questione del preservativo. Il Papa dice il preservativo fa male in Africa. Guardi, strana concomitanza, io che sono presidente di Preservativi Gratis, molto conosciuto, praticamente mi viene vietata, quindi censurato il mio, gravissimo, adesso c'è un'azione in corso. È gravissima, sono è molto grave, io dico che è molto grave. Comunque Marzullo, lei dice Marzullo non la fa più andare nel suo programma, non la invita più. Allora abbiamo bloccato il film per il momento. Per il momento abbiamo bloccato il film con Tinto Brass, con... No, questo me l'ha detto, ma insomma, l'ospitata da Marzullo, niente, non finito. Ho capito lei che cosa vuole sottolineare, non è solo quello, è il fatto che vietare la mia presenza lì vuol dire che spaventava il discorso, in quel momento non bisognava parlare dei preservativi. Ipocrita del preservativo, ha capito? Questo ho capito, va bene. È molto grave. Vedremo come... Noi regaleremo un pacco di preservativi a tutti. Ancora? I grandi, sì, certamente, in particolar modo a Franceschini, a Berlusconi, a Barroso, inviamo questa settimana con un nostro pulmino che si chiama Preservativi Gratis con le scritte, girerà l'Italia e l'Europa per dare pacchi di preservativi a coloro come il treno fanno dell'Europa del PD, lei invece fa i camion di preservativi, sì, i camion di preservativi di in Europa. Le dico di più, se vogliamo dire qualcosa anche un po' scandaloso, però un po' più così. Io ho fatto un calendario, so che queste notizie piccanti fanno un po' gossip, diciamo, in un certo qual modo. Ho fatto un calendario un po' piccante in cui indosso, proprio per cercare un po' di togliere paura, non sa usare o non vuole usare il profilattico, indosso in 12 pose, diciamo, o se il profilattico, con delle didascalie che spiegano perché è importante indossare. Lei? Io proprio. Nudo? E ne ho regalato alcuni anni fa, quando c'è stato il summit, il governo Prodi, venne la Rosi Bindi a Caserta, Palazzo Reale, fecero una... Come ha reagito la Bindi? Ne ho regalato una alla Bindi, dicono che ha cambiato colore dei capelli. Ma lei com'è in questo calendario? Nudo, non credo. Sì, è abbastanza... Vabbè, me lo mandi, è vietato ai minori, via Monterosa 91, 20149 Milano. Non si può parlare del calendario. No, infatti non si può parlare. Lei ne ha parlato, però. La ringrazio, dottor Cirillo. Buonasera. Prima di mandare in onda i titoli del TG3 e di Sky TG24, gli ultimi 2-3 giornali andati in onda, vorrei leggervi una lettera dei detenuti e degli ergastolani del carcere di Spoleto, che oggi ho trovato sul sito di Repubblica. Non so se sia anche nel giornale, forse sì. La lettera ha come titolo "I nostri 5 euro dal carcere ai terremotati". Si dice che la storia di un paese passi attraverso le sue galere. Ecco, noi con questo piccolo e simbolico gesto vogliamo fare sapere che anche dal letame nascono i fiori, mentre dai diamanti non nasce nulla. Vogliamo far sapere che in noi c'è ancora amore per l'umanità che ci ha esclusi, alcuni per sempre, dal mondo dei vivi. I detenuti e gli ergastolani del carcere di Spoleto, colpiti dai lutti e dalle immagini televisive di quanto è accaduto in Abruzzo, hanno pensato di fare una colletta di 5 euro ciascuno per inviare una somma di denaro ai bambini disagiati dal terremoto. Ci dispiace di non poter fare di più, altrimenti l'avremmo fatto. Avremmo scavato insieme a voi fra le macerie, molti di noi con il pensiero l'hanno fatto. Durante i funerali trasmessi in televisione davanti a quelle piccole bare, molti di noi, padri e nonni di nascosto, hanno pianto. Anche i cattivi e i colpevoli per sempre piangono, hanno cuore e hanno il senso della giustizia universale. Vi mandiamo tutte le nostre energie, amore e affetto, vi siamo vicini con tutti i nostri pensieri di incoraggiamento e solidarietà. Deleghiamo il direttore del carcere di Spoleto, dottor Ernesto Padovani, di gestire questa piccola somma raccolta da dare a sua scelta a qualche associazione sul territorio che si occupa dell'assistenza ai bambini. Buona fortuna i detenuti e gli ergastolani in lotta per la vita. È una bella lettera, volevo leggervela, andiamo a sentire i titoli del TG3. Napolitano, la Costituzione è superiore al potere esecutivo, non si può sacrificare la divisione dei poteri per la governabilità. Per la liberazione Berlusconi all'altare della patria e da Onna, anche Franceschini nel paese devastato dal sisma, Di Pietro premier ipocrita. Il Fondo Monetario Internazionale taglia di nuovo le previsioni di crescita per l'Italia, quest'anno meno 4,4%, meglio nel 2010. 2,5 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà assoluta, per l'Istat nel 2007 la situazione non è migliorata, il Sud resta maglia nera. Si è impiccato il responsabile finanziario di Freddie Mac, la compagnia americana di prestiti immobiliari, travolta dallo scandalo dei mutui subprime. Blitz nelle Filippine per liberare Vagni, l'operatore italiano della Croce Rossa rapito dai terroristi, le sue condizioni si sono aggravate. Oggi si celebra la giornata mondiale della terra voluta dall'ONU, a Siracusa il G8 sull'ambiente e a Roma il concerto di Ben Harper. 100 anni fa nasceva Indro Montanelli, foto, interviste, inchieste e materiale inedito delle Teche Rai, mostra da oggi a Fucecchio, sua città natale. Va bene, andiamo anche a sentire il telegiornale di Sky. Per il Fondo Monetario segni di ripresa nel 2010, ma Unione Europea e Italia sono indietro. Geithner riconosce le responsabilità USA nella crisi, suicida un manager di Freddie Mac. Via libera del Senato al decreto legge sicurezza, le ronde restano fuori dal provvedimento. Napolitano, non dissacriamo la Costituzione, il 25 aprile non è una festa di parte. Intesa sul referendum elettorale, il voto slitta al 21 giugno. Il caso dei 3 bimbi abbandonati ad Aosta, il padre aveva ucciso una quarta sorellina. Filippine, blitz dell'esercito per liberare l'ostaggio italiano, ira di Frattini. Sudafrica al voto, seggi aperti fino alle 21, Zuma, il grande favorito. È il giorno della Terra, il mondo festeggia l'Earth Day, su Sky, video evento di Celentano. Ultima chance per la Juventus, stasera con la Lazio la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Bene, prima di andare agli ascoltatori all'800240024, una frase raccolta da un intervento di Vincenzo Visco, che raramente ex ministro delle finanze e sottosegretario dell'ultimo governo Prodi, raramente parla in pubblico, l'ha fatto questa mattina a Repubblica TV e dice: la vera lotta all'evasione fiscale l'abbiamo fatta solo noi nei governi di centrosinistra. Sentite. Quando nei governi di centrosinistra ci sono stati gli anni 90, quest'ultimo di Prodi, sono gli unici periodi nella storia d'Italia in cui l'evasione fiscale si è ridotta in modo considerevole. Carlo da Torino, buonasera. Buonasera. Intanto volevo dire che sono rimasto molto colpito da quella lettera dei detenuti che hai appena letto, insomma è una cosa molto... Sono passato dalle risate a lei che guarda il calendario di quella personaggio a una stata d'animo diversa. Comunque io volevo intervenire in merito a queste candidature proposte da Berlusconi a Strasburgo. Sì. E dire che... Non è ancora ufficiale la candidatura di queste, chiamiamole veline anche, se ormai il termine veline ha assunto un qualcosa di negativo, di dispregiativo, io non sono d'accordo su questo, comunque. No, ma anch'io, infatti io sono sempre stato un sostenitore di Berlusconi, quindi non ho problemi a ammetterlo, però quello che mi lascia perplesso è che il discorso anche di immagine dell'Italia che si ha, perché immagino che in un Parlamento di Strasburgo come minimo si richieda un minimo di cultura generale, che può essere sapere una lingua, non chiedo 3, ma magari saperne una, eccetera. E infatti quindi... stanno facendo dei corsi, pare, sono stati distribuiti in questa lezione che è stata fatta a possibili candidati, tra cui c'erano anche diverse signorine, chiamiamole così. Sono stati dati degli opuscoli su come funziona la NATO, su come funziona il Parlamento europeo, eccetera, eccetera. Poi, se sappiano meno le lingue, sai, io non credo che parlamentari europei di lunga data italiani conoscono perfettamente le lingue, ho grandi dubbi su questo. No, beh, ci sono molti giovani che le sanno, però insomma sì, no, certo, certo. No. Però poi da una critica che facevo a un personaggio che ho sempre votato, quindi lo ammetto senza problemi, passo invece a una presa d'atto, cioè che secondo me se sono questi i candidati che si presentano, e questa è la situazione che c'è, perché Berlusconi è prima di tutto un imprenditore e lui è sempre riuscito a vendere i prodotti che proponeva al mercato, e allo stesso modo nella politica probabilmente lui sceglie le persone che sa che saranno votate e possono portare più voti. Ma infatti credo che ci sia anche questo tipo di ragionamento. Infatti la vera questione è: porta più voti Rosaria Capacchione, che è un simbolo, scrittrice, giornalista della lotta anticamorra nel sud, oppure Angela Sozio, ex del Grande Fratello? Insomma, alla fine il dilemma è questo: forse porta più voti Angela Sozio del Grande Fratello, non so se drammaticamente o no, però è così. Infatti è una presa d'atto di una situazione del livello della politica, che poi fare le crociate e cambiarlo, quello è un discorso diverso, penso sia molto difficile, al momento funziona così. La ringrazio, che poi noi ci battiamo, discutiamo sulle elezioni europee e poi apprendiamo, come oggi scrive Stella sul Corriere della Sera, che in realtà gli italiani a Strasburgo hanno delle assenze record, tra i 20 peggiori metà sono dei nostri, secondo la ricerca di un assistente parlamentare, e sono basse anche le presenze in commissione. Io l'ho già detto da tempo, fosse per me abolirei il Parlamento europeo, per cui. Sergio da Milano. Pronto? Sì, dica. È da Roma. Sergio da Roma, va bene. Senta, allora io ho sentito prima in auto il primo intervento, uno dei primi, quel signor Cirillo che presentava queste innumerevoli liste, e quello dà poi proprio il segno di dove siamo arrivati. Io sono un elettore di centrosinistra, dico la verità, però la strada ormai è delineata, cioè vediamo proprio, cioè come ha detto lei, non si sa se porta più voti, perché l'impegno della politica oggi è soltanto una raccolta di voti. Allora, se porta più voti una velina o un personaggio che potrebbe essere più o meno culturalmente valido, l'importante è la raccolta del voto. La raccolta del voto ha dato il via, ma questo anni fa, se pensate che anni fa ci sono partiti che devono difendere l'albero, quello che difendeva le auto, le automobilisti, cioè era una raccolta di voti, scendendo la politica, è sempre raccolta di voti, adesso sì, non facciamo gli ipocriti. Certo, era impensabile durante la prima repubblica avere certi candidati. Io non so se sia un bene o un male, però è così. Sergio, lei si stupisce di questo, si indigna, diciamo, anche se parola di indignazione forse è eccessiva, o no? No, io dico questo, che anche uno dei leader del centrosinistra annuncia il suo volere di passare in Europa perché deve stare più vicino al figlio, dal senso di tutto, dal senso che l'Europa è un posto dove non si va, ha detto bene dal numero delle assenze, l'Europa è solo un posto dove poi si prenderà stipendi favolosi. Sarebbe più giusto candidare tutti i giovani laureati disoccupati, almeno questi abbiamo risolto un tema di lavoro, i quali si impegneranno a uscire nel momento che troveranno il posto di lavoro. Va bene, questa l'introito con altri 10. Questa non è male, meglio questo del parcheggio per vecchie cariatidi della politica, o comunque del parcheggio provvisorio, perché tanto tutti prima o poi tornano in Italia. La ringrazio, abbiamo in linea e lo ringraziamo perché è uno dei nostri ospiti preferiti, Vittorio Sgarbi, buonasera. Bravo, ho letto il suo libro sul Ponte di Messina, molto divertente. Ma come? Abbiamo avuto un divertente scontro a Exit con Ilaria D'Amico. Sì, ma non solo, poi in realtà il ponte, io credo che sia più opportuno farlo che non farlo, perché dicendo che lo si farà siamo certi che non lo si farà. Ah beh, su questo non c'è dubbio. Però ho letto le parti che io non ricordavo di un mio intervento a Reggio, a Messina, talmente... Sì. Se sono vere, attribuite a me, saranno quelle cose che ho detto, talmente spiritose, che ho detto guarda com'è divertente aver pescato queste battute. E quindi il libro, tra l'altro, non chi l'ha pubblicato? Rizzoli, sì. Tra l'altro lei sul ponte è una coppia. Lei sul ponte è uno dei pochi che come Berlusconi peraltro, che la pensa sempre nello stesso modo dalla prima repubblica in poi. Lei ha sempre detto le stesse cose, questo bisogna riconoscerlo, perché senta Sgarbi, io però l'ho chiamata per un'altra cosa, ma insomma com'è sta storia? Lei fa il sindaco di Salemi, tutti dicono benissimo, io non ho la possibilità di controllare, insomma, cioè, fa un sacco di altre cose, interviene su molti temi, perché insomma Sgarbi è Sgarbi. Dopodiché vuole fare anche il parlamentare europeo, ma chi glielo fa fare? No, l'ho già fatto il Parlamento europeo e ho dal 99 al 2001. Sì. E riconosco tutti i limiti e anche la varietà. E poi sono venuto, tornato in Italia perché mi hanno chiamato al governo, dove peraltro sono durato soltanto un anno. Ma la candidatura al Parlamento europeo è la naturale estensione del ruolo di sindaco, perché il sindaco, per quanto potente, è piccolo. Il parlamentare europeo è impotente e grande. Allora l'idea di poter prendere quello che oggi in tutto il mondo è riconosciuto come modello Salemi, farlo diventare un paradigma europeo, molto mi attrae. Quando ero nella Commissione Cultura del Parlamento Europeo litigai con la responsabile del partito, del Gruppo Popolare, perché portai il tema dei cattivi restauri ai centri storici italiani e citai Spoleto, e questa cretina mi disse: ah, ma cos'è questo tema che è un paesino? Dico: ma lei stia zitta. E da quel momento poi ho smesso di occuparmi delle cose, la povera cretina che voleva parlare soltanto di scuola, non aveva idea di quello che invece anche oggi è un tema fondamentale per l'Abruzzo. Quindi questo è... Vabbè, insomma, lei vuole tornare a fare il parlamentare europeo, ecco, non, qui, sì, fin qui non c'è niente di male. Ma non è in contrasto un po' gli cittadini di Salemi, come la prenderebbero? Insomma, Salemi, andare no, da Salemi a Strasburgo, Bruxelles, una cosa complicatissima. No, beh, solo per i collegamenti, ma in realtà un buon sindaco deve essere almeno un parlamentare europeo, un parlamentare italiano. Il miglior sindaco d'Italia, che è il sindaco di Varallo, io allievo, è parlamentare italiano, vicepresidente della provincia di Vercelli, e fra un po' sarà anche vice sindaco o prosindaco di Borgo Selvia. Alla faccia della questione dei... Sì, con un vantaggio però, che prendono stipendio solo a quattro ruoli, quindi fa risparmiare lo Stato, e in quanto è bravo fa bene in quattro posti. Lavora più uno bravo in quattro posti che quattro coglioni ognuno per un posto. Vabbè che lei lavora 27 ore al giorno, il tempo per lei non è un problema. Senta, però l'UDC, ma insomma lei con tutto quello che pensa del matrimonio, dei profilattici, dei preservativi, di tante altre cose, ma insomma ha visto i cartelloni di Casini con i figli, la famiglia eccetera, ma Sgarbi con l'UDC a me sembra un paradosso, un qualcosa di rivoluzionario, forse va bene anche per questo, che ne so. Sì, per l'elemento di contrasto mi sembrava quello da giocare nel modo più efficace, però non è mica detto che mi candidi con l'UDC. Nelle prossime ore le possibilità si possono ampliare e già ho una buona idea di candidarmi con la Lega nel centro, perché estendere il modello della Lega al centro è qualcosa che tutto sommato mi sembra degno di attenzione. Poi c'è sempre il Popolo della Libertà, poi c'è Sinistra e Libertà, quindi abbiamo ancora qualche giorno per decidere. Cioè, potrebbe candidarsi addirittura anche con Sinistra e Libertà. Ho parlato con Vendola e se il mio amico Pannella avesse pensato di non fare il solito gesto inutile, ma di aggregarsi ai Verdi, a Vendola e ai socialisti, poteva essere una buona opportunità per fare quel gruppo. Senta, la Lega però, io ricordo delle sue litigate. Ho la candidatura anche di Alleanza di Centro con l'MPA, hanno chiesto di candidare con Storace. Qui però credo che non lo farò. Sì, della Lega ho detto, certo. Cioè, con la Lega, lei, io ricordo delle formidabili litigate quando era assessore a Milano, ha sempre parlato di una Lega rozza, eccetera. Insomma, bisogna anche rieducarla, no? Quindi è una funzione. Tanto ho portato Bossi alle mostre di Guercino, ho portato Bossi alle mostre di Giotto. In realtà, se poi la Lega si estende al centro e assume i valori dei Verdi, quelli che i Verdi non utilizzano più, i valori dell'identità, evidentemente si può anche. Anzi, è forse l'unico partito a cui si possa dare invece che prendere. Ma io insomma mi devo ricredere, perché alla fine il risultato è questo. Ieri abbiamo un po' giocato facendo ascoltare lei cosa pensava del matrimonio, però Sgarbi ormai è il copyright Sgarbi, può candidarsi con chiunque, non è che viene cambiato dall'UDC o da Sinistra e Libertà, può candidarsi con chiunque, o sbaglio? È bravo, infatti sono me stesso. La ringrazio. Quindi, ore vedremo cosa cambia. Va bene. Stasera vado a Exit, nelle prossime due ore. Pure, un'altra volta. Forse di che si parla? Si parla della campagna europea, e loro penseranno di avere un esponente dell'UDC. Chissà se sarò dell'UDC fra due ore. Grazie, buona serata. Grazie a lei. 19:40, eccoci qui, 800 24 00 24. E dove andiamo? Andiamo a Milano da Giovanni, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Ha sentito, Sgarbi può candidarsi con chiunque, Sinistra e Libertà, Storace ha detto di no. Beh, però Sgarbi ancora una volta ci ha praticamente entusiasmato con le sue battute, va. Battute, insomma, poi non è che abbia fatto molte battute, comunque. No, no, è così, comunque... Sgarbi, è così, non è che giocava. Insomma, potrebbe davvero candidarsi con Sinistra e Libertà, come nello stesso tempo per la Lega, o forse anche con l'UDC. Sì, sì, ma non per questo. Oppure per nessuno, dicendo, oppure per nessuno. Sgarbi, io non lo critico Sgarbi, anzi, lo ammiro. Perché ha portato sempre le sue idee avanti e quelle sono e basta, con chiunque si candidi. Quindi, vabbè, su questo si può discutere. Comunque, di che ci voleva parlare Giovanni? Dunque, io volevo intervenire su tre piccole osservazioni. Per quanto riguarda l'indignazione delle veline candidate, non mi indigna affatto, perché ben venga il giovane con le idee chiare, con modernità praticamente, che porta un po' di moderno all'interno di tutte quelle istituzioni vecchie. Il secondo la piccola osservazione è che oggi Napolitano ha detto che è possibile una piccola modifica alla Costituzione e dare più potere alla Camera delle Autonomie. Ha detto anche che alla Camera delle Autonomie. Ha detto anche che per la governabilità non si deve violare la Costituzione, che è legittimo rafforzare il governo, ma non si tocchi la divisione dei poteri. Certo. Vabbè, certo, insomma, ha detto un po' tutto e il contrario di tutto, diciamo la verità. Vabbè, però io non ho sentito ancora delle esternazioni da parte di quei partiti della sinistra che prima, quando Berlusconi dice una cosa, dopo 5-6 anni purtroppo gli danno sempre ragione. A distanza di 5-6 anni. Lei dice, insomma, una volta che Napolitano dice che la Costituzione si può toccare, non è che si può rimproverare qualcosa a Berlusconi da questo punto di vista. Certo, infatti. Vabbè, ho capito, Giovanni, la ringrazio. Danilo, provincia di Pavia, buonasera. Io volevo intervenire sullo stesso argomento che ha anticipato chi mi ha preceduto. Volevo dire che in Italia, come sempre, si mettono le etichette alle persone. Voglio dire, questa ragazza che magari ha fatto il Grande Fratello, adesso è quella che ha fatto il Grande Fratello. Io non ho idea di quale sia la sua cultura, la sua preparazione, però come me penso che chi gli dà l'etichetta di Grande Fratello non lo sa, e invece subito criticarla per quello che ha fatto, senza neanche conoscerla questa persona. Lei di chi sta parlando? Di una delle possibili candidate del PDL, esatto, volute da Berlusconi, che hanno partecipato a questa sorta di, esatto, di incontro in vista delle europee. Prima dicevano che bisogna avere una preparazione, bisogna conoscere le lingue. A me piacerebbe fare un test, ma serio, a tutti i senatori e ai parlamentari. Vorrei vedere chi lo passa, sia un test di lingue o un test di cultura generale. Mi piacerebbe provare a vedere, e vorrei vedere chi passa. Uno perché è un avvocato, è un notaio, ha cultura generale, non lo so. No, ma io, Danilo, sono anche d'accordo con lei. Nei confronti di queste candidature c'è anche molto snobismo, ci si ricama sopra. È il frutto, se vogliamo, del fatto che sceglie il leader e il leader sceglie quello che vuole o chi vuole. Poi si può scegliere, certo, l'avvocato internazionalista, e magari c'è anche questa scelta, e si sceglie anche la bella ragazza. La ringrazio. Vittorio da Milano. Buonasera. Dica. Buonasera, saluta. Niente, io volevo una volta tanto bacchettarla un po' anch'io. Prego, faccia. Lei avrebbe bisogno, parlavo un attimo fa con un mio amico che mi ha chiamato, ho detto metti giù subito, mi aspetto una chiamata da Radio 24. Sì. Dice, guarda che quel signore lì prima era molto più equilibrato, diciamo super padre, che so che lei non vuole essere chiamato super padre. Ecco, diciamo che era più equidistante. Ecco. Equidistante. Adesso mi sembra che è molto più... Perché quando sento qualcuno, lei dovrebbe provare a ascoltare una sua registrazione. Ma lo faccio, lo spesso. Quando c'è qualcuno che parla male del governo, di Berlusconi, lei diventa seccato, diventa un po' acido e lo bacchetta immediatamente. Quindi io volevo bacchettarlo. Poi va bene che adesso... Vittorio, ognuno ascolta quello che vuole ascoltare. Se dovessimo fare la lista delle, tra virgolette, critiche che abbiamo fatto, che ci siamo permessi di fare con molta modestia, non solo all'opposizione ma soprattutto al governo Berlusconi, dovrei fare una lista lunga una ventina di pagine, per cui ognuno poi ascolta quello che le sue orecchie vogliono ascoltare. Questa è la mia percezione, eh. Poi lei naturalmente sarà in buonissima fede, anzi lo do per scontato, però è così, Vittorio. Ognuno ascolta la parte che ha voglia di ascoltare, oblitera invece il resto. Ripeto, facciamo quotidianamente non solo critiche, perché non è che abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, ma facciamo osservazioni critiche, ecco, diciamo così, nei confronti di provvedimenti, idee dell'esecutivo quotidianamente. Vittorio, la realtà è questa, poi faccia lei. Insomma, a parte questo, di cosa vuole parlare? Allora, ecco, infatti era quello che io volevo, perché il mio intervento era un altro. Allora, io, va bene, stavo dicendo di Volta Gabbana, stava parlando adesso Sgarbi, che sento che lo trovano magari anche nell'UDC. Io ho un grosso problema, nel senso che prima io sono un vecchio, forse rimbambito, repubblicano, liberale, forse sono rimasti solo i liberali e i repubblicani non li vedo più, però... Io litigavo con quelli di sinistra perché erano proprio sinistra, avevo persino un fratello che era di sinistra e lui litigavano con quello. Adesso per litigare con questa gente qui devo andare a destra, perché sono andati tutti a destra, no? O la maggior parte sono a destra, quindi vanno di moda di Volta Gabbana. Quindi questo è il problema. Quando sento che lei non si scandalizza e sento i suoi gli ascoltatori che devono, a me vanno bene le veline al Parlamento europeo, ma questo paese qui è veramente stato cloroformizzato, è stato rincoglionito, cioè se uno del Grande Fratello prende i voti meno di una signora che ha citato lei, che adesso io non mi ricordo più il nome di una ma io non lo so se prende più voti o meno voti, poi ne vede come si interpreta in maniera distorta le cose. Io ho semplicemente detto, ponendomi un interrogativo, non dando giudizi come invece legittimamente fa lei, ho detto è possibile che in Italia, forse anche in altri paesi, un candidato che sia un ex velina, un personaggio del mondo dello spettacolo, ecco, buttiamola così, prenda più voti del simbolo dell'anticamorra a Napoli, Rosaria Capacchione, giornalista, scrittrice. Domanda, punto interrogativo, è possibile una cosa di questo tipo? Dico sì, è possibile. Che riflessioni possiamo fare? No, lei subito ha detto prende più voti, ma che ne so io se prende più voti? No, ma Cruciani, mi faccia dire ancora una cosa. No, sì. vorrei che voi giornalisti, in questo caso, facesse la vostra parte. Che dovremmo dire? Mi scusi. Voi dovreste dire alla gente che vi ascolta, sì, che non è possibile che succeda questa cosa. Ma come non è possibile? Io sono molto tollerante, Ma come non può succedere? Ma io non sono così... così fondamentalista, non è che penso che i voti li possa prendere solamente un certo tipo di persone, i voti li possono prendere tutti. Non, questo è un atteggiamento sbagliato, secondo me. Io non devo prendere nessuna posizione su questo, pongo interrogativi, punto e basta. Tutto quello che ti danno, io un senso critico da parte vostra mi aspetterei. Ma non lo so, io su... una sì, critica da parte vostra, ma una critica su che? Una presa di posizione da parte di un giornalista che dice no, non è possibile che in questo paese vadano al Parlamento europeo quelli del Grande Fratello o abbiano la possibilità di andare al Parlamento europeo. Questo voglio dire. Ma no, io se si aspetta da me una presa di posizione di questo tipo non l'avrà. Vittorio, mi dispiace, non l'avrà. Lei potrà giudicarmi come vuole, ma non l'avrà questa presa di posizione. Vuol dire divulgare una cultura, secondo me, che è sbagliata, perché alla fine poi la gente accetta poi tutto quello che dite voi. Poi, ma non è così, la gente non dà. No, guardi, è così. Guardi, è così. Quindi io mi aspetto ho capito, lei si aspetta questo, che io dica è sbagliato candidare le persone che hanno partecipato al Grande Fratello, è sbagliato candidare le veline o ex veline o protagoniste di serial televisivi? Io non glielo dirò, perché penso che non sia così, perché penso che abbiano tutto il diritto a essere candidate e a candidarsi, per chiunque, per il Partito Democratico, per l'UDC, per Berlusconi, per chiunque. Io conosco dei giovani, Cruciani, che hanno scarpinato, sono andati ad attaccare, fanno politica attiva, e gente intelligente che parla le lingue, questi sono gente da candidare, non queste qui perché sono belle e truccate e magari anche col seno rifatto, no, non è possibile. Sì, però Vittorio, non è che ci sono solo queste candidate, Sì, e poi in quel caso i voti bisogna prenderli, come lei sa, al Parlamento Europeo non è che ci si va perché si è messi secondi o terzi in lista con le liste bloccate, bisogna prendere i voti, bisogna fare campagna elettorale, girare, insomma. Allora io mi aspetto da lei, da Radio 24, voglio dire, non che lei debba dare degli indirizzi politici, però voglio dire, ho capito. A dire, allora cercate di scegliere delle persone che non vanno lì solo perché hanno l'immagine, ma che hanno anche... Però mi scusi, Vittorio, io ho una figlia che ha girato il mondo per una vita e mi dice che lei si vergogna quando parlano di politica che sta a Londra o che sta a New York o che sta a Houston, perché quando parlano di politica lei, io sto zitta, ma lei gira gira il mondo, immagino che lei lo girerà il mondo, quindi anche lei avrà questo, voglio dire, quando parlano di Berlusconi, lei si sente così tranquilla? No, ma veramente non ho di questi ritorni. Comunque non è questo il punto. Lei pone una questione interessante, per carità. Le persone da candidare al Parlamento europeo, e l'Italia non ha moltissimi parlamentari europei, ha un certo numero di parlamentari europei. E dunque bisognerebbe in teoria scegliere i migliori, dice lei, ma la politica non è così, non è che si scelgono i migliori e poi come si giudicano i migliori? Sono interrogativi difficili, e non ci sono risposte. La ringrazio, Vittorio. Luigi, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Devo dire che mi ha divertito l'intervento che ha fatto con l'ascoltatore precedente, perché faccio una era molto bravo l'ascoltatore precedente, bravissimo, ma anche lei, ma se potessi dire vede com'è bello il mondo, io le farei la critica esattamente contraria, quindi è proprio vero che due teste, cioè ogni testa un mondo. Io invece volevo parlare, se posso, parlare a proposito della dichiarazione di Visco, che mi ha fatto saltare letteralmente sulla sedia, perché avremmo preferito tanto dimenticarceli certi personaggi, perché adesso non mi dica che Visco non ha diritto di parlare, per carità, che parli pure. Ha diritto di parlare come ognuno di noi ha diritto di dire anche le fesserie più incredibili, però ragazzi, venire a dire che solo loro hanno fatto la lotta all'evasione, loro non hanno fatto lotta all'evasione, loro hanno ammazzato di tasse la gente, dopodiché hanno tirato su un po' di soldi in più e hanno spacciato questo per lotta all'evasione. Le racconto un aneddoto, mia sorella è insegnante, quindi dipendente dello Stato, e avendo una casa fa il 740 ovviamente, no? Le è arrivata, pensi un po', sotto Visco, le è arrivata una cartella esattoriale evidentemente pazza, per la quale lei sarebbe stata evasore fiscale di non so che cosa sulla tredicesima dello stipendio che prende dallo Stato. Questo naturalmente è finito nel novero delle evasioni fiscali recuperate, ma ragazzi, ma qui dobbiamo essere seri, non dobbiamo dire non è che la politica fiscale di Visco si incentri solo su quello che lei ha raccontato, però, no. Io ho raccontato un aneddoto, non sì. Ho detto che è tutto finito così, però siccome io sono un piccolo imprenditore le posso dire che ha dato una bastonata di tasse a quelli che già le pagavano prima, perché un evasore non è conosciuto dal fisco e di conseguenza bisogna andare a prendere chi il fisco non conosce, non ammazzare chi il fisco già conosce, perché così facendo si fa solo del gettito ma non si mette a posto, anzi si creano le condizioni per cui uno che evade poco evada di più, secondo me, questa è la mia modesta opinione. Poi le dico, per fortuna, io credo invece che bisognerebbe utilizzare una sorta di contrasto di interesse tra i vari interessi dei cittadini, è qualcosa che succede per esempio negli Stati Uniti, dove magari ci sarebbe un primo periodo iniziale per mettere in moto questa cosa che potrebbe costare molto all'erario, ma poi una volta diciamo preso il giro, una volta fatta girare la ruota, probabilmente l'erario avrebbe dei grossi vantaggi, perché vede, se io vado dal medico e posso scaricare solo il 19%, chiedo lo sconto del 20% al medico e arrivederci Roma, non è così che si fa. Ho capito. La ringrazio Luigi. Grazie, buonasera. Andiamo a Lucca da Silvia, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire a questo punto l'argomento del giorno, questa candidatura delle veline alle europee. Da elettrice di centrodestra convinta e soddisfatta, ma assai delusa da questa notizia, l'ho sentita da voi, quindi stavo guidando, ho avuto un attimo così, perché parlo da giovane che fa fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo della ricerca, nel mondo dell'università, le stesse cose che sentiamo da mesi, da anni. Quindi, come dicevo prima, insomma, ad una sua collega, non basta più una laurea, non basta più un dottorato di ricerca, master, specializzazioni, sembra che non basti più niente. E quindi l'ho presa come un messaggio, perché poi non è. Però mi scusi, tutte queste cose servono a trovare lavoro, non è che servono ad andare al Parlamento europeo. No, servono parecchio a trovare lavoro invece, le specializzazioni, master, eccetera. Non è che necessariamente chi fa una specializzazione poi debba andare in Europa. Anzi, spesso la politica poi si avvale dei supporti tecnici di persone che hanno conoscenze. La politica ha a che fare anche con altre cose, col carisma, con la personalità, anche con l'estetica, se vogliamo, o no? No, certo, no, ma infatti non penso che sia il peggiore di tutti i mali, lo scandalo nazionale, non la vedo neanche sotto un punto di vista appunto snobbistico, perché sono veline, il Grande Fratello, è semplicemente un messaggio che le assicuro, per chi credo la pensi come me, insomma un giovane che comunque sta cercando di provare, non incoraggia. Poi ovviamente il problema non è lì, appunto, come diceva lei, piuttosto è in tanti altri campi dove ti accorgi che purtroppo per noi non c'è spazio, comunque è molto difficile crearselo. Ma per noi chi? Per noi giovani, virgolette, insomma, per noi che non abbiamo esperienza, che cominciamo e quindi grandi aiuti sinceramente non li abbiamo, e un po' di rabbia sinceramente viene, ecco. Poi io penso comunque che chi è bravo, chi ha i meriti, chissà, comunque arriverà, comunque qualcosa farà sempre. Però ecco, sinceramente come messaggio non, cioè, mi ha un po' scoraggiato, ecco, devo essere sincera. Me lo aspettavo e mi ha comunque scoraggiato. La ringrazio, Silvia. Ieri in realtà cosa è successo? È iniziata una 3 giorni di formazione politica, oggi toccherà al professor Brunetta, che serve alle ragazze, leggo da un articolo di Francesco Bei, sempre molto informato, sulla Repubblica di oggi, che serve alle ragazze per capire se la politica fa per loro e al PDL per selezionare quelle davvero meritevoli del seggio. Perché la sorpresa della giornata è stata l'arrivo del Presidente del Consiglio, con la buona novella: molte di voi non lo sanno ancora, ma alcune saranno candidate. Questo è venuto fuori dalla giornata di ieri, e poi Repubblica naturalmente titola in campo: troniste, veline e letteronze, arrivano i volti nuovi di Silvio, la carica delle candidate di Bella Presenza chiamata a un corso di formazione politica. Ex letteronza di 28 anni, pugliese, aveva tentato la corsa alle politiche, si sta parlando, non mi ricordo di chi, una delle quattro, Camilla Ferranti, attrice che potrebbe essere candidata, Angela Sozio, che fu immortalata nella villa La Certosa di Berlusconi, ex del Grande Fratello, e Eleonora Gaggioli, attrice romana di fiction. Titoli del TG5. Improvviso blitz delle forze speciali filippine per liberare l'ostaggio italiano in mano ai militanti islamici da 3 mesi. Frattini, contrari al raid militare, troppo pericoloso. Negli Stati Uniti si uccide un banchiere coinvolto nello scandalo dei mutui facili. Il Fondo Monetario, nel 2010, leggera crescita del PIL mondiale. Luoghi incontaminati, ma anche smog e surriscaldamento globale. Le tante facce di un pianeta da salvare. In oltre 170 paesi si celebra la giornata della Terra. Pioggia e freddo nelle zone terremotate, fiumi ingrossati e danni alle strade. Domani il Consiglio dei Ministri ha accoppito per approvare il decreto urgente sull'Abruzzo. Drammatico appello di una madre di una famiglia vicina alla mafia, il cui figlio è sparito, per la prima volta infranto il codice del silenzio. Svanita nel nulla la coppia tedesca che ad Aosta ha abbandonato 3 figli piccoli in una pizzeria. Il padre naturale è in carcere per l'uccisione della prima figlia. Pier Silvio Berlusconi al TG5. Grande Fratello e Amici sono spettacoli vincenti, perché al passo con i tempi raccontano storie, sentimenti e sogni, e sognare fa sempre bene. E va bene, naturalmente il TG5 dà grande spazio a programmi aziendali e dunque anche un'intervista di Pier Silvio Berlusconi sul Grande Fratello e su Amici, prodotti di punta di Mediaset. TG1, sentiamo. Napolitano, legittimo rafforzare il governo ma senza toccare la divisione dei poteri, la carta non è un residuato bellico. 25 aprile, Berlusconi al Vittoriano e a Donna. Franceschini, premier, dica parole chiare sull'antifascismo, referendum il 21 giugno. Fondo monetario, recessione peggiore dal dopoguerra, 2010 ripresa. USA, trovato morto il numero uno del colosso dei mutui. Filippine, via libera al blitz per liberare l'ostaggio italiano. Frattini al TG1, contrari ad azioni che lo mettano in pericolo. Terremoto in Abruzzo, affossa timori per la montagna che frana, fiumi straripati nel teramano, pioggia ancora per giorni. Con la recessione la terra è più pulita, Siracusa il G8 Ambiente. In studio Paolo Bonolis, voce del film sulle bellezze del pianeta. Va bene, Antonio, provincia di Caserta, buonasera. Buonasera, salve. Innanzitutto buonasera a lei e anche agli altri ascoltatori. Volevo dire che mi è piaciuta la lettera dei detenuti del carcere di Spoleto, e anche mi è piaciuto l'intervento di Sgarbi, perché diciamo dimostra un amore, diciamo, verso tutti, perché abbraccia tutto l'arco costituzionale, lui si potrebbe candidare con chiunque senza, però naturalmente penso che chi spende un voto lo spende interpretando come poi sarà, diciamo, l'azione di chi ha votato. Ma se uno non ha un ideale di base, non so come possa essere così. Non ho capito niente, però va bene lo stesso. Le spiego semplicemente. Se uno è di destra o di sinistra o di centrodestra o di centrosinistra, ci si aspetta da lui dei comportamenti. Se uno è in procinto di candidarsi e può andare dall'UDC alla Lega o alla sinistra, io non so quali comportamenti ci si possa aspettare da Sgarbi. Come sarà il suo operato da parlamentare europeo se si candidasse, insomma. È poco chiaro, però poi volevo anche dire che ho sentito l'onorevole Cirillo. Onorevole Cirillo è una parola grossa, insomma, il dottor Cirillo. No, dottor Cirillo mi sembra che una volta sia stato candidato e sia stato parlamentare, non vorrei sbagliare. No, assolutamente no. No. Comunque, però, insomma, a prescindere da questo. Io vivendo qui in provincia di Caserta lo identifico come un estroso, però come estroso ha detto anche delle cose che mi sento di condividere, cioè se è vero che lui praticamente non è stata fatta la puntata da Marzullo per la concomitanza del viaggio del Papa in Sudafrica e l'intervento sui preservativi, questo dice che la società è un pochino troppo condizionata, forse. Guardi Antonio, francamente non mi sembra di poter stare dietro troppo le cose che dice Cirillo, non mi pare si possa parlare di censura o di cosa grave, come lui ha detto, con tutto il rispetto e la simpatia che posso avere nei confronti di queste iniziative di Cirillo. Doveva essere presentato un film da Marzullo, poi Marzullo non l'ha più chiamato, vai a capire perché. Insomma, non mi pare una cosa di grande interesse. Secondo Cirillo è perché si doveva parlare di preservativi, lui è uno appunto che presenta queste liste, fa questa battaglia per i preservativi gratis, è uscita fuori la cosa del Papa e dunque l'hanno cassato. Ma insomma, no, non mi pare una cosa seria, però tutto è possibile, Antonio, tutto è possibile. La ringrazio, 26 minuti, prima della 7 ancora un ascoltatore da Cremona, Mosè, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, come sta? Non c'è male. Ascolti, io prima di tutto complimenti a lei e alla redazione perché riuscite ogni volta a trovare degli spunti, a parte quelli ovviamente seri, anche molto divertenti. Quello di stasera mi ha colpito tantissimo perché nel pomeriggio insieme a alcuni colleghi ci dilettavamo a leggere i nomi di questi grandi partiti che stanno spuntando. Sì, ma in realtà qui bisogna chiarire una cosa. Ogni volta che in Italia ci sono delle elezioni, elezioni europee, elezioni politiche, eccetera, un po' per mettersi in mostra, un po' per fare pubblicità magari al proprio nome o alla propria azienda o alla propria iniziativa, eccetera, eccetera, per motivi più disparati escono fuori tantissime liste. Poi c'è il vaglio della Cassazione e lì c'è la mannaia e non è che tutti poi in realtà hanno la possibilità di presentarsi. Speriamo che la mannaia ci vada giù abbastanza duro perché per me dovrebbe andarci giù. Parla tanto di risparmiare i soldi sul referendum e buttarli così mi sembra veramente. Per me dovrebbe andarci giù durissima la mannaia. Comunque, insomma. Ascolti, ma io volevo fare una battuta e una riflessione. La battuta era, mi chiedevo se il dottor Cirillo, oltre che promotore delle donne insoddisfatte, fosse anche promotore dell'altro partito, degli impotenti. Sì, perché ma non era impotente. Sono un po' in contrasto questi sì, due. Sono un po' in contrasto, effettivamente, ma in realtà gliel'abbiamo già chiesto ieri, l'aveva detto in qualche intervento, non mi ricordo dove, su qualche giornale. In realtà sono impotenti, se non ricordo male, esistenziali, non sono impotenti dal punto di vista sessuale. Questa è l'altra lista, ma insomma. Non approfondiamo, che è meglio. E ascolti, invece una riflessione, anche in base ai titoli di coda del non di coda, ai titoli del TG5, in cui ho sentito che ci sarà un'intervista di Pier Silvio Berlusconi sul successo del Grande Fratello e di Amici. Sì. E, per riallacciarmi a quanto diceva un ascoltatore poco fa, quello un po' arrabbiato con lei, uno dei tanti in realtà che ogni tanto spuntano. Che ce l'aveva con una ragazza del Grande Fratello, adesso io non so esattamente chi sia, però avevo sentito che ci sarebbe stata questa candidatura. E senza nulla togliere a questa persona, perché sono d'accordo che tutti hanno diritto di dimostrare quanto valgono, dallo spazzino fino al neolaureato in giurisprudenza o al mega avvocato. Ma mi chiedevo, alle elezioni, da sempre, elezioni, referendum, per le consultazioni, siamo un popolo diseducato ad andare a votare. Perché le percentuali sono comunque piuttosto basse nel nord. Veramente no, è esattamente il contrario. Insomma, l'Italia ha uno dei più alti tassi di partecipazione alle elezioni nel mondo, credo. Però se guarda le può darsi che sulle elezioni europee ci sono spesso, insomma, lasciano un po' perplessi. Però allora il mio dubbio è che ci stiamo trasformando in un popolo più abituato al televoto che al voto. Perché ci stanno guardi, non sembra, no, sì, ma non sembra, dalle statistiche non sembra che sia così. Ancora c'è una grande partecipazione al voto in Italia. Poi si può distinguere le elezioni europee, si può distinguere da regione a regione. Alle europee ci si va di meno, come è naturale che sia, ai referendum ancora meno. Però in generale l'Italia è un paese che a parole è contro la politica, eccetera, poi nei fatti si va alle urne in massa. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Ma io la chiamavo perché l'ascolto ogni sera, la chiamavo perché volevo così una considerazione sull'intervento di Sgarbi prima. Ma io penso una cosa, a parte il fatto che comunque secondo me non ci voleva Sgarbi per arrivare in un paesino della Sicilia a fare il sindaco, insomma, perché poi alla fine diventiamo, insomma, come tutti, è diventato, insomma, il punto, il centro del mondo soltanto perché c'è Sgarbi, insomma, quel paesino, vabbè. Lasciamo perdere questo. Qualche effetto, adesso, al di là, io ripeto, non sono in grado di giudicare il per carità, sì, quello che fa concretamente a Salemi, però non c'è dubbio che dal punto di vista, come dire, dell'interesse sicuramente ha suscitato interesse. Ho visto che tantissimi VIP hanno comprato la casa, insomma, un euro, insomma, ecco, adesso non so, poi giudicherà poi la storia più avanti, insomma, se sì, è stata un'operazione sì, buona certo, oppure no. Certo. Detto questo, però io la giudico, la sento ogni sera, non ho mai telefonato, è la prima volta che chiamo. La giudico e la considero una persona molto intelligente, mi piace quello che dice, insomma, poi si può essere d'accordo oppure no. Però non sono d'accordo, mi dà un po' fastidio quando lei, insomma, cioè credo che Cusgarbi forse abbia scherzato un po', insomma, nel dire sì, vabbè, si candida con qualsiasi partito, insomma. Ma lei pensa davvero che una persona che fa il sindaco, insomma, e che poi si candida anche al Parlamento europeo, e che poi ha anche altri incarichi, e che poi pubblica libri, e che poi che fa conferenze, ecco, riesce a fare tutto questo perché? Perché comunque è un genio, o perché trova il tempo per farlo, o perché soltanto per accumulare stipendi? Ma diciamocelo proprio fuori dai denti, perché alla fine il discorso è proprio questo. Paolo, il caso di Sgarbi è molto particolare, sicuramente lo fa anche per lo stipendio da parlamentare europeo, ma cosa vuole che dica a Sgarbi? Sgarbi dice che si può fare benissimo il sindaco, il parlamentare europeo, il vicepresidente della provincia, eccetera. Infatti io gli ho detto, ma scusi, come fa lei Salemi a portare avanti fare il parlamentare europeo? E certo, lui dice, glielo dice una persona che ha 34 anni, laureato in legge, che è praticantato ma non becca una lira, lavora in un call center, e comunque un po' ci sentiamo frustrati, però ci sentiamo anche un po' incazzati e presi per il culo quando poi vediamo tutti questi personaggi che non solo stanno in politica da una vita, ma oltre a questo, insomma, poi accumulano sempre più incarichi. Però mi scusi Paolo, lei dice con parole molto così poco diplomatiche, insomma, sono incazzato, che ha detto? Sì, dico ci incazziamo un po', insomma, parla sì, in generale, però, insomma. No, ma ho capito, non è una frustrazione. E non, le dico, non sono neanche più di tanto arrabbiato, perché ormai, insomma, però perché bisogna pensare a persone che hanno doppio incarico, persone che come Sgarbi eccetera, e sentirsi e indignarsi? Io questo non capisco, indignarsi per la propria condizione, dico, adesso non mi riferisco a lei, magari. No, mi indigno perché so già che per me, se volessi buttarmi in politica dicendola proprio così in modo molto volgare, ci sarebbe poco spazio. Beh, ho capito, Paolo, però come sa il mondo non è che è fatto di non è uguale per tutti, c'è chi arriva per certe, il discorso è che non parlo di io dico l'uguaglianza che ci sia ai nastri di partenza, e questo, le regole per tutti. Sì, le famose pari opportunità alla partenza, per carità, ma poi a un certo punto ci sono anche delle capacità che vengono fuori, e che Sgarbi dal punto di vista comunicativo ne abbia, non c'è dubbio. Insomma, ma da quello questa... no, un'ottima dialettica, che poi sia molto bravo anche in politica, quello è tutto da vedere, insomma, e comunque sì, no, non certo. Mi ricordo di una legge o di qualcosa che sia passata comunque... Nemmeno io. Quello non me la ricordo, ma non è che adesso... Però io il riferimento, io guardi, le critiche a Sgarbi le possiamo fare... e sulla maggior parte delle critiche sono d'accordo. Poi nei confronti di Sgarbi ho una sorta di così di debole, perché lo trovo un bravo. Però è il riferimento poi alla propria condizione personale che non capisco. Cioè il passaggio dalla critica a Sgarbi, a quello che dice, eccetera. Però io sono. Allora le spiego, non è una frustrazione o un raffronto con la propria condizione personale, per dire, con un'altra di personalità, insomma. Sì. Dico. Il semplice comunque guardare se stessi e dire ok, se io volessi con le mie idee, no, con le mie capacità, sì, non so, mettermi comunque al servizio, diciamo, comunque, ma anche per me stesso. Ma ci provi, ci provi, cosa vuole critica, Paolo? Ci provi? No, ma assolutamente, ma io parlo della politica come in tantissimi altri campi, non è solo la politica. Cioè, questo è comunque un discorso. Non è che l'Italia è un mondo fatto di persone che non riescono a fare, non riescono ad arrivare, non riescono a sfondare nel lavoro. Ci sono tantissimi esempi di persone che riescono a sfondare nel lavoro, che fanno quello che vogliono e che sono soddisfatti. Non è che... Ha capito che persone talentuose che riescono poi alla fine, non è che ci sono solo quelli che non riescono perché il mondo è fatto di corporazioni, di posti chiusi, perché è difficile. Ci sono tantissime persone che invece ce la fanno, Ma infatti, no, ma io sono d'accordo, però le sto dicendo, per chi comunque viene da non viene comunque da una famiglia agiata, insomma, da una famiglia che ha la possibilità, comunque è molto più difficile, e mi credo non è piaggeria, no, ma non quella è normale. Però l'Italia è fatta anche di persone, e ce ne sono tantissime, che nascono da famiglie tra virgolette umili, persone, famiglie certamente non inserite nell'establishment, diciamo così, e che invece poi arrivano a fare la loro carriera, a guadagnare dei bei soldini, eccetera eccetera. Questa sera ci sono molte telefonate, moltissimi interventi, la maggior parte dei quali indignati per questa storia della possibile, perché bisogna sempre sottolineare, possibile candidatura di una serie di belle ragazze, chiamiamole così, con il PDL alle prossime elezioni europee, da Angela Sozio in avanti. Poi molti identificano il Grande Fratello, la velina, la bella ragazza e basta, il cervello vuoto. Ecco, questa è un po' la rappresentazione che si fa di queste persone. Io non so, sarò... da un po' di tempo allergico all'indignazione. Quando sento le persone che si indignano, non so perché, tendo immediatamente a pensarla diversamente. Cioè l'indignazione, la lagna, ma la lagna intesa non voglio dire di nulla di male all'ascoltatore che ha chiamato prima, la lagna intesa nel senso buono del termine, non la lagna tanto per essere lagnosi. La lagna non la sopporto, non so perché, è un po' di tempo che è così. Prima di presentarvi un ospite proprio su questo tema, andiamo a sentire Roberto da Roma. Buonasera. Pronto? Roberto, mi sente? Sì, buonasera. Eccoci. A lei, dottore. Sì, io non sono lagnoso, però devo constatare che francamente questa notizia qui, che ho appena letto anche oggi e poi ho seguito, insomma, mi sembra che denoti una situazione di marketing politico ormai agli ultimi stadi, cioè di fatto si vuole carpire voti in modo veloce, mettendo in una lista di persone che chiaramente magari non passeranno nemmeno, perché dipende da dove le mettono come preferenze, vediamo un po' che zone, eccetera. Però al di là di questo il problema è un altro: il concetto di rappresentanza politica si deve basare su scelte che dipendono dalle considerazioni e dall'analisi di quelli che sono gli aspetti di programma politico, di idee da portare avanti e di progetti a carattere europeo. Se si vuole questa mi sembra un po' un'illusione, Roberto. Dottore, che... non è un'illusione. Io intanto sono d'accordo con lei sul fatto che queste prenderanno i voti, anche i voti. Farebbe meglio prendere anche qualche altro voto oltre che quello. Però al di là di questo, la questione è un'altra. Battutona, che... Roberto. No, una battuta per dire che insomma fino a prova contraria non si può fare un lavoro del genere. Io non ci credo che il modo di selezionare la classe dirigente sia quella di accontentarsi del fatto che un gruppo di italiani per motivi diversi ha dato un'espressione di consenso, magari non so quanto pilotata o altro, e che poi queste persone rappresentino, perché il concetto di rappresentanza parlamentare è questo. No, sa a me cosa trovo. Poi, dopodiché va bene, ma è il principio per me che non va bene. Sì, cioè, no, ma ho capito, Roberto. Innanzitutto i voti non è che valgono più quelli presi da Rosaria Capacchione, meno quelli che saranno presi forse da Angela Sotto. Primo. Secondo, su una cosa le devo dare ragione. A me c'è un aspetto che mi sembra il più ridicolo di tutti, che è questo, che se uno vuole candidare, se Berlusconi ha intenzione di candidare queste persone, le candidi, ma ci si risparmi questa storia dei degli incontri con Brunetta, con Frattini, per preparare queste persone a un'eventuale candidatura alle elezioni europee. Tutto questo è francamente ridicolo. Naturalmente poi ognuno può fare quello che vuole. Filippo Facci, buonasera. Buonasera, buonasera. Cosa pensi di tutto questo? Io penso di essere sufficientemente anticonformista da tuttavia, come posso dire, provare veramente uno sconvolgimento per questa faccenda. Cioè, intendiamoci, non è solo una faccenda di centrodestra, perché anche il centrosinistra sta facendo delle cose abbastanza brutte con le candidature per le europee. Cioè, se vogliamo, stanno riproponendo sia il centrodestra che il centrosinistra lo stesso schema. Ricordiamoci che a sinistra era Franceschini a fare le liste e a mettere dentro addetti stampa, parenti, segretarie, eccetera, eccetera. Alle politiche, che sì, che è la loro versione di un po' di quello che sta succedendo nel centrodestra, ma che ora voglio dire, sta smaccatamente esplodendo, e c'è un limite, io credo davvero, a tutto. Questo limite è stato completamente superato. Berlusconi sarà anche un genio, però non può sbatterci in faccia, come dire, la realtà in questo modo. Quale realtà? Quella per cui e nel Parlamento italiano e in quello europeo ormai si è capito che le persone sono solo dei soldatini, degli spingitori di bottoni, la cui eventuale intellettualità è del tutto una variabile indipendente, e possiamo ben dirlo analizzando le candidate che di cui stiamo parlando, perché qui non si tratta di dire stanno mettendo dentro anche delle attrici o delle persone, qua si tratta dello disconoscimento di ciò che hanno cercato di insegnarci anche quando eravamo bambini, perché una volta ci spiegavano che in Parlamento ci andasse, non dico la crema delle professioni o insomma della società, però qualche cosa del genere. Qui che cosa sta succedendo? Qua ci stanno andando delle persone che sono invece fallite nelle professioni di attrici, eccetera, eccetera. Di attrici e di veline, di letteronze, come vedo scritto sui giornali, che quindi insomma in virtù di una pura beltà e tendenza a essere accondiscendenti e vengono perciò premiate. Noi non possiamo, voglio dire, io non voglio sentirmi un vecchio bacucco, ma noi non, cosa possiamo dire a un bambino? Cosa gli diciamo? Vai a fare la letterina, che male che ti vada fai il parlamentare? Vabbè, a parte che non succede a tutte le letterine, però c'è una differenza per esempio le elezioni politiche italiane, che in questo caso i voti bisogna prenderli. È vero che essere in lista magari dopo Berlusconi come numero 2, numero 3, c'è un effetto trascinamento, magari qualche comizio. Benissimo come va e come è sempre andata nelle elezioni europee, indipendentemente dal sistema di elezione. Cioè si vota il partito, non si guarda neanche chi c'è, buonanotte, andrà così anche stavolta. Però insomma non è solo e tanto il non doversela prendere, e io invece me la voglio prendere, con queste persone che vengono candidate e che sono semplicemente imbarazzanti, perché sono, diciamo, oppure anche una grande massa di ignoranti totali. Però il punto è anche calcolare che per ciascuna di queste persone che viene candidata, altre non lo vengono, perché secondo me è ancora più imbarazzante talvolta, e in queste elezioni europee e anche in quelle scorse, è la lista degli esclusi. Cioè, perché ormai non tanto è solo la competenza, ma la dirittura morale, l'indipendenza morale, vengono visti solamente come dei problemi rispetto appunto al compito ormai soldatesco e automatico che deve avere il parlamentare rispetto a quella leader o a quella cinquantina di parlamentari, nel caso del Parlamento italiano, che decidono semplicemente le cose, quando per il resto ci sono delle persone che sono imbarazzanti e qualcuna è addirittura diventata ministro. Io mi imbarazzo di meno, però noto una cosa, appunto lo dicevo prima, si potrebbe almeno fare a meno dei corsi, ecco, insomma, quello sì, di presentare questa cosa. È ancora più, sì, ancora più imbarazzante, perché dimostra, perché ci dice, se vogliamo, anche una verità. Che significa? Beh, per quel che devono sapere oggigiorno certi parlamentari, per quel che possono fare, gli fai una full immersion di 3 giorni ed è sufficiente. Sì, però questo significa, come posso dire, arrendersi alla realtà in una misura che cioè, non lo so, scrivetela nella Costituzione allora. Diteci e spiegateci che quelli dovrebbero veramente essere i rappresentanti del popolo, sì, il meglio del popolo. Assomigliano, queste elezioni assomigliano ai corsi serali per ripetenti, per carità, con tutto il rispetto per i corsi serali per ripetenti, che magari sono fatti anche per gli operai che si dovevano prendere, no, la licenza media o la licenza delle scuole superiori, ma insomma gli opuscoli diffusi per far capire come funziona il Parlamento europeo, la NATO, vorrei leggerli, anzi li leggeremo nei prossimi giorni, perché saranno una sorta di sunto di bignami da portarsi via da Strasburgo. Tutto questo francamente è ridicolo, sì, anch'io la penso così. Ma se non fosse altro che gli europarlamentari, anche i parlamentari guadagnano dei bellissimi soldi, intendiamoci, però questo non fa che velocizzare qualcosa che in parte è già successo, cioè lo status del parlamentare non è mai stato così basso, cioè c'è tanta di quella gente che ormai rifiuta persino offerte che vengono fatte, per cui davvero chi riesce nelle professioni se ne guarda bene dall'entrare in un luogo che ormai, cioè, ci si è rassegnati che sia stato svuotato delle vecchie proprietà che erano appunto le prerogative di una volta del Parlamento, cioè diciamo la verità. È vero, cioè ci sono anche delle lagnanze per cui insomma qualche parlamentare ha provato in Italia ad esempio a lamentarsi e dire insomma che non si può essere solo dei soldatini spingitori di bottoni, però diciamo anche la verità, cioè molti parlamentari di oggi nel Parlamento di una volta non si avrebbero neanche mai messo piede. Ecco, però il merito, diciamo il quoziente intellettuale, da cosa si e come si valuta? Anche qui, insomma. Ah, vabbè, se la mettiamo sul piano filosofico non ne usciamo più. Nessuno può dirsi superiore a, non lo so, a Elisa. Cioè, io l'ho detto prima, tra Angela Sozio e Rosaria Capacchione, che è il, come dire, il simbolo dell'anticamorra a Napoli, probabilmente saranno in lista tutte e due, non lo sappiamo, vedremo. Rosaria Capacchione sicuramente. Beh, certamente una differenza magari di preparazione su quello che è l'Italia, su quello che è l'Europa, su quello che accade, così ci sarà pure, però chi la giudica? Sì, lo so, e del resto chi decide che magari un odontotecnico non sappia operare i denti meglio di un dentista? Non ne usciamo più, abbiamo bisogno di raccontarci ancora delle minime regole, quelle per cui per fare certe professioni ci vuole la laurea, quella per cui per fare il ministro ci vuole un certo curriculum, quello per cui, ripeto, ai bambini non possiamo raccontare che una che diventa, che va al Grande Fratello e diventa famosa per le tette che fa vedere, allora diventa europarlamentare, non glielo possiamo dire, e se questo significa essere conformista o essere diventato anzitempo un vecchio rincoglionito, vorrà dire che lo sono diventato. grazie a Filippo Facci, buona serata. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Napolitano, il 25 aprile non è festa di una parte, la Costituzione non è un residuato bellico, legittimo rafforzare i poteri del governo, ma servono motivazioni chiare e trasparenti. Il Fondo Monetario taglia le stime di crescita per il 2009, segni di ripresa nel 2010, più difficoltà in Europa, dramma negli Stati Uniti, suicida il numero uno della finanziaria Freddie Mac. Ore drammatiche nelle Filippine, blitz per liberare l'italiano Eugenio Vagni, ancora ostaggio dei ribelli islamici, 1000 soldati impegnati, Frattini, decisione inopportuna. La coppia tedesca d'Aosta, saranno rimpatriati i 3 figli della donna, dietro il giallo forse un infanticidio. Un quarto figlio era stato ucciso dal padre, ora in carcere in Germania. Ancora maltempo sulle zone terremotate, inchiesta, servono mesi per le prime perizie sui crolli. 100 gli edifici sequestrati, domani all'Aquila, Consiglio dei Ministri. Bene, alle 20.35 andiamo agli ascoltatori, e chi abbiamo? Ortensia da Vicenza, buonasera. Buonasera. Dica. Io non sono indignata, pur non approvando particolarmente le scelte che, no, anzi non sono ancora scelte, sono proposte, però io vorrei ricordare che mi sembra che si abbia la memoria corta in tanti partiti, allora la Cicciolina, la transessuale, Gipo Farassini, Gino Paoli, Franca Rame, attori, attrici, cantanti, personaggi stravaganti, ce ne sono stati moltissimi, e quindi ognuno scelga, poi vota o non vota, questo è il mio parere. E poi invece è un sentimento, non è un'opinione, è un sentimento a cui tengo moltissimo, che, non, sì, che è di questo periodo, lei forse non sarà d'accordo nel modo come fa di solito, mi permette di esprimerlo. Io dico viva il 1° maggio, viva la festa dei lavoratori, della Repubblica, ma no, per piacere, il 25 aprile è gronda di sangue, è una guerra civile, di antifascismo se ne parla sempre, quindi non si tratta di dimenticare quello, ma di dimenticare gli orrori, quelli sì, quelli di quei giorni sì, vi prego. Ecco, va bene, Ortensia. La ringrazio. Carlo da Firenze, buonasera. Carlo? Pronto? Carlo non mi sente più. Sandro da Milano, buonasera. Buonasera, pronto, mi sente? La sento, dica. Ecco, io volevo fare degli interventi proprio riguardo al 25 aprile. Abbiamo letto sulla stampa in questi giorni che sia Berlusconi che Franceschini vogliono recarsi in Abruzzo, perché, insomma, mi sembra francamente fuori luogo questo. E perché mai? Sembra uno spot elettorale, per, insomma, proprio, ci si è mai recato in quelle zone il 25 aprile. Vabbè, c'è stato anche un terremoto, che vadano là il 25 aprile. Alcune... c'è stato anche un terremoto, dunque andranno indipendentemente dal 25 aprile. Il 25 aprile poi ci sono alcuni paesi dell'Abruzzo che sono stati teatro durante la seconda guerra mondiale di vari eccidi, ma insomma, non mi sembra niente di così, di così. Sì, ma perché proprio in quella data? Comunque, insomma, mi sembra un po' inopportuno, no? Non crede? Assolutamente no. E poi il fatto che lei non si indigni, anche quello mi piace poco, perché... che vuole fare? Perché paese... cosa mi dovrei indignare? Ma in dipende, paese... naturalmente. Ma in questo paese, diciamo, c'è molto di cui indignarsi, perché, ad esempio, abbiamo un presidente della Camera che è ex delfino di Almirante, e allora? Che secondo me non avrebbe neppure diritto di parola. No, e che dobbiamo invece fare? Invece ce lo ritroviamo come carica dello Stato. E invece che dovremmo farlo? Dovremmo condannarlo, appenderlo a Piazzale Loreto? Che dovremmo fare? Ma io credo che non si debbano ripetere le violenze che sono state fatte in passato, ma che si dia parola a persone del genere mi sembra fuori luogo. Fini, Sandro, la Russia, allora, o parliamo seriamente, oppure se vogliamo così... scherzare, possiamo scherzare, no, qui, no, qui non siamo, qui non siamo, qui non siamo, al, qui non siamo al, ma che, io non prendo posizione sul nulla, ha capito? Quando si parla di qualcosa, bene, altrimenti se si parla del nulla, ma, e in questo caso quando siamo... un attimo solo, e in questo caso quando qualcuno sostiene Fili non dovrebbe nemmeno parlare, mi dispiace, ma non è un argomento, è il nulla assoluto. Allora io sul nulla assoluto non posso rispondere, non è che poi si può rispondere su tutto, sul nulla assoluto non rispondo, abbia pazienza con il nostro passato abbiamo persino lì. Sandro, lei ha sostenuto una cosa che è il nulla assoluto, non è una un'idea, ma è una lei, ma questo lo dico io, un paese civile. Sì, questo lo dico io, non lo dico, per fortuna non lo penso. Quando lei sostiene Fini non ha diritto di parola, come la Russa non dovrebbe nemmeno parlare. Questo qua non è un ragionamento, è il nulla, è niente, è zero, ma è una battuta civile. Da mi scusi, in un paese civile, in Belgio, in Francia, un ex fascista, è un delfino di Almirante. Sandro, quanto ci devo mettere a... Abbiamo mai visto in un paese europeo un ex fascista seconda carica dello Stato? Me lo dica. Va bene, Sandro. No, veramente, me lo dica. Veramente abbiamo avuto... guardi, le posso fare un esempio se proprio mi spinge a parlare di questa cosa, perché sono una persona molto tollerante. Allora, anche queste follie bisogna rispondere. Perché si risponde anche alle follie. È giusto rispondere alle follie. Sandro, cosa vuole un esempio? Adesso la prima cosa che mi viene in mente, uno che lei sicuramente considera non fascista, forse peggio, che si chiama Jean-Marie Le Pen, no, è un mostro. Ma non è stata una carica dello Stato. Aspetti, ha rischiato di diventare la prima carica dello Stato, la prima carica dello Stato, non perché è andato al ballottaggio in Francia. Dunque, mi faccia il piacere, non dica stupidaggini e corbellerie. Lei dice stupidaggini. Ma di cosa stiamo parlando? Io so benissimo. Lei la che dice. La Repubblica nata dalla Resistenza. Queste persone al governo. Va bene. È una vergogna. Prende posizione. Sì, prenderemo posizione. Guardi, subito. Andremo sull'Aventino, prenderemo il fucile, andremo in montagna a combattere contro Fini e contro i fascisti che sono al governo. Subito, immediatamente. Appena finisco la trasmissione, vado qui in montagna, vicino Monza, sul Resegone, a prendere un bel fucile, mi piazzo là. Per una ventina di giorni finché non riesco a pizzicare qualcuno dall'alto. Sandro, mi faccia il piacere. 20:41, 800 24 00 24. Abbiamo Vauro a 8:30. Ha ragione, perché differenza. In Italia si difende il diritto di libertà, di satira quando è in Danimarca, quando è in Italia un po' meno, ma questo è normale. No, volevo solo intervenire sul decreto perché ha detto una falsità, a parte che lui mi ricorda Sasha quando diceva... Domani, sentiremo tutto domani, perché poi il famoso editto bulgaro che evocava Vauro nei giorni scorsi non esiste più, perché Vauro giovedì torna. Marco da Napoli, buonasera. Pronto, buonasera, dottor Crociani. Allora, volevo fare una premessa del tipo che io non sono, insomma, pregiudizioso nei confronti dell'operato del centrodestra o di quello che fa, perché non esiste per me l'ideologia, esistono problemi, soluzioni ai problemi e soluzioni che si adattano al tempo in cui viviamo. Mi trovo d'accordo con Fini, infatti. Detto ciò, volevo dire riguardo la candidatura delle cosiddette veline, e questo non sono d'accordo, perché alla fine questo, non lo so, mi sembra un po' la storia che si vedeva nei film anni 70 con Alvaro Vitali, Lino Banfi, insomma basta essere amico del potente di turno e va in Europa, tipo al Parlamento Europeo, tipo, allora, la signorina del Grande Fratello, io la ricordo nelle fotografie con Berlusconi in villa, seduta sulle gambe, la signorina che stava alla RAI, io ricordo le telefonate con Sacca dove si cercava di mettere la varia, insomma, l'attricetta che è amica del presidente. Non so se ci sia tra queste qua, in realtà. Quella delle telefonate, ma io quelle telefonate me le voglio dimenticare, andrebbero distrutte, per cui non parliamo di quelle telefonate che... Ok, allora diciamo che comunque la, l'annunciatrice sempre della RAI fa parte di una famiglia abbastanza nota e vabbè, conosciuta. Allora qual è il ragionamento? Il punto è questo, queste persone, queste sono giovani, sono come me, che io, vabbè, hanno trovato il modo come aggirare la generazione dei cosiddetti 1.000 euro al mese. Ecco, diventi amico del potente, vai in Europa e ti pigli un bello stipendio da parlamentare europeo, perché è proprio di oggi, tra i 20 più assenteisti europarlamentari, sì, l'abbiamo detto, sono italiani. Va bene, Marco, lei insomma dice alla faccia dei precari, eccetera, eccetera, anche queste persone che magari sono tutte precarie, queste persone vanno a fare i parlamentari europei a 25.000 euro al mese. Sono precari pure questi, pure queste ragazze, non mi pare che abbiano stipendi sicuri. Va bene, per questa sera abbiamo concluso. Alfredo da Milano, Fiorella, provincia di Milano, e Carlo da Livorno. Ci sentiamo, se vogliono, domani sera 18:30. Ciao.